Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, ancora in diretta dalla Fiera del Levante di Bari. Domani sarà la volta di Deborah Rosciani con Salvadanaio. Alle 18, come annunciato ieri, avremo ospite il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, per parlare di temi locali, quindi il sud, ma anche chiaramente nazionali, la finanziaria, ma non solo, anche come l'opposizione intende muoversi e organizzarsi, se riesce a muoversi e organizzarsi in maniera quantomeno unitaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente con le altre notizie: il mercato, la borsa Milano va bene, non benissimo, più 2%, però Francoforte più 2,75, Parigi più 1,20 e ancora Madrid più 2,32% in questo momento. Euro a quota 1,3694, fortissimo, e ne parleremo poi nel corso dei mercati, il rialzo di alcuni titoli. Nel caso specifico, e qui notizie ci sono, Ansaldo STS guadagna il 19%, cioè quasi il 20, 19,6%. Ancora, Finmeccanica il 15,44. Sono indiscrezioni quelle che muovono i titoli sul fatto che Finmeccanica sarebbe in trattativa con General Electric per vendere sia Ansaldo STS che Ansaldo Breda. Ansaldo STS si occupa, produce segnaletica ferroviaria. A giudicare dalla reazione del mercato, più che indiscrezioni sembrano certezze, più 20% rispetto a Ansaldo, più 15,44 Finmeccanica. ST Microelectronics, buone le indicazioni che arrivano oggi dal mercato dei microchips negli Stati Uniti, guadagna 9,83%, più 9% Fondiaria, più 5,50 Pirelli ed Exor, più 5,30 Fiat sul Fiat Auto, e più 5,13% Fiat Industrial. E poi Prismian più 4,70, Banco Popolare più 4,60, Snam Rete Gas più 3,70, Telecom Italia più 3,40, il 3,20 è il rialzo invece di Atlantia. Chiudiamo con Azimut più 3%. Di negativo c'è Unicredit, meno 2,1%, e in particolare questo calo perché è l'unica banca in realtà che cala. Generali, che non sono una banca, perdono lo 0,70%, le altre banche non registrano grandissimi rialzi, però UbiBanca più 0,30%, Monte dei Paschi più 0,80%, Popolare di Milano più 0,80%, Intesa San Paolo più 2,3%, e invece torna a calare Unicredit, che scende di nuovo a 72 centesimi per azione. Ne parleremo nel corso del programma, così come anche delle novità sulla manovra finanziaria. Meno novità invece sul fronte estero, anche se arriva una buona notizia dalla Germania. Allora partiamo subito con le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Poco mosso l'oro, $1,831 all'oncia, il petrolio sempre sotto $90 al barile, $89,30 al barile. Ancora rialzi sul fronte della benzina, non ne posso oggettivamente più di continuare a ricordare come non siano giustificati dal prezzo del petrolio. Se lo paghiamo in euro, il petrolio costa €65 al barile e la benzina è a €1,63. Tre anni fa costava €93 al barile, la benzina era più bassa, €1,56 al litro. I misteri di Fatima del mondo petrolifero. Allora, dicevamo delle buone notizie che arrivano dalla Germania. Mentre lo spread tra BTP italiani, quindi la differenza tra quanto costa l'Italia indebitarsi e quanto costa la Germania, quanto più a rischio siamo percepiti noi, resta alto, sotto i 400 punti, ma a 388 punti, quindi a noi tocca offrire il 3,88% in più nei nostri titoli di Stato. Dicevo, mentre lo spread resta alto, dalla Germania arriva un sostegno. Il vice cancelliere e ministro dell'economia tedesco, Philipp Rösler, ha detto: l'attacco dei mercati contro l'Italia lo percepiamo come un attacco a tutta la zona euro. Bene il pareggio di bilancio nell'obiettivo della manovra, dico però espressamente no agli euro bond, e questo, diciamo, è il parere di tutto il governo tedesco. Gli euro bond sono caldeggiati da Juncker e dal nostro ministro Tremonti, ma la Germania, insomma, è molto netta sulla cosa, è un no secco. Poi la vicenda francese, di cui ci occuperemo fra poco. Moody's ha tagliato il voto a Société Générale e a Crédit Agricole, i due titoli sono precipitati in borsa, un leggero recupero poi, ma insomma la, il temuto taglio del rating per BNP Paribas, per Société Générale e Crédit Agricole è avvenuto, mantenuto invece invariato il voto su BNP Paribas, che ha annunciato un piano di venta di asset, di partecipazioni da 70 miliardi europee. E poi la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che ha prestato mezzo miliardo di dollari di liquidità a 7 giorni a 2 banche europee di cui non si sa il nome, e ha confermato che oggi comprerà nuovi titoli italiani. La Cina, a noi fa un po' sorridere che dopo essere stata tanto esecrata adesso venga considerata come il papa straniero, il cavaliere bianco che deve salvare l'Italia. Ma insomma, questa mattina il presidente del Consiglio Berlusconi e il vicepresidente della conferenza politica consultiva del popolo cinese, nonché membro del Politburo del Partito Comunista Cinese, Wang Gang, si è incontrato con il presidente del Consiglio, e anche lì gli acquisti del fondo, il China Investment Corporation, fondo sovrano, 420 miliardi, ma ne gestisce per partecipazione 3.200, sembrerebbe interessato non tanto ai nostri titoli di Stato quanto a partecipazioni in industrie e in infrastrutture. Ricordo che la Cina attualmente possiede titoli di Stato italiani per un totale, circa, oltre agli asset, di 74 miliardi di euro. E siamo in collegamento proprio con la Cina, dove c'è l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che ringraziamo vista anche l'ora. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi. Allora, le ho fatto volutamente ascoltare le notizie di oggi, perché magari con il fuso lei era in Cina per un insieme di incontri con dirigenti cinesi. La prima domanda è molto secca. Che percezione... Io ero in Cina per fare lezioni. Per fare lezioni. E conferenze. E poi ho incontrato anche parecchi dirigenti cinesi. Ma non ha fatto esame agli studenti cinesi, però, no? No. Fatto conferenze, abbiamo fatto dibattiti, è un ambiente intellettualmente molto molto più vivo di quanto non si pensi. Ah beh, senta Presidente, che impressione ha ricevuto? Sono preoccupati i cinesi della situazione del debito italiano, oltre che spagnolo, quindi dell'area euro? Ha registrato più preoccupazione di quanto non si aspettasse? No, la preoccupazione generale sulla tenuta dell'euro c'è. Ovviamente poi si divide le preoccupazioni per i singoli paesi, e la domanda che tutti fanno è: l'euro resisterà o no? Questa è la domanda generale, e evidentemente non è diversa in Cina da quella che è in questo momento negli Stati Uniti. Insomma, il sapere, avere delle riunioni sia gli studenti che i colleghi, che i politici, oggi ho visto anche il futuro probabile primo ministro cinese, attuale vice primo ministro, evidentemente tutti si chiedono se l'Europa passerà questa tempesta. Insomma, il mio parere è che la passerà, non so se questo ha tranquillizzato bene, ecco, gli interlocutori, però certamente il dibattito sull'Europa è vivo ed è anche molto interessante intellettualmente. Ecco, Presidente, abbiamo visto ieri molta agitazione, molto fermento nell'ipotesi che appunto il fondo più importante, il China Investment Corporation, fondo sovrano di Pechino, possa comprare oltre che debito anche partecipazioni italiane. Quando guardiamo la classifica però nei nostri rapporti con la Cina, noi siamo ben bassi in posizione. Allora, lei ha avuto la sensazione che vi sia un interesse per andare oltre a partecipazione di minoranza, partecipazione più strategica da parte del China Investment Corporation? No, non ho assolutamente toccato questi problemi, perché non è il mio mestiere, e non voglio interferire in quello che fa il governo, quindi proprio non li ho toccati. Devo dire che c'è abbastanza la pressione che lei ha riferito prima in trasmissione da parte del governo tedesco, c'è anche in Cina, cioè guarda l'Italia come, perché riflette il problema dell'intera Europa. Quindi ha ragione però lei, quando troviamo le statistiche sia sugli investimenti reciproci che sulle cooperazioni tecniche eccetera, l'Italia è veramente in una posizione estremamente arretrata di fronte a quello che fa la Germania. Noi proprio non esistiamo in Cina. Ecco, visto che lei è un profondo conoscitore della Cina, andammo, seguimmo anche noi quando era Presidente del Consiglio la missione Confindustriale, al tempo c'era il Presidente Monte Zemolo in Cina, una missione molto articolata. Secondo lei il motivo per cui noi siamo così deboli negli investimenti cinesi verso la Cina e anche, se vogliamo, dalla Cina verso l'Italia è perché c'è stato un errore di valutazione nel passato anche delle nostre imprese, o perché abbiamo giustamente preferito concentrarci su mercati a noi più vicini e conosciuti, l'Est Europa, i Balcani, il Nord Mediterraneo? Ma c'è una ragione di provincialismo tradizionale, ma la ragione vera è che abbiamo perduto le nostre grandi imprese. Voglio dire, per essere Cina bisogna avere una dimensione perlomeno di alcune centinaia di milioni di euro di fatturato, a meno che uno non faccia qui qualche piccolo pezzo, abbia decentrato qualche pezzo di produzione, che poi oggi non si decentra più in Cina perché i costi stanno crescendo, ma si decentra in altri paesi. Ma per essere attivi e per il mercato cinese e per esportare bisogna avere la dimensione che purtroppo poche imprese italiane hanno. Questo è un problema serissimo. La globalizzazione non si affronta con le minime imprese, piccolo appello, ma fino a un certo punto ce la siamo raccontata un po' troppo quella del piccolo e bello. Ecco, Presidente Prodi, quando lei vede che non so, il ministro Tremonti, dopo aver scritto un libro molto critico sulla Cina ai tempi in cui non era ministro, Rischi fatali, se non ricordo male, adesso ha cambiato idea, manda il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli in Cina un mese fa a prendere contatti, così come il Presidente del Consiglio, che molto scettico era stato sulla Cina, adesso sembra più morbido. Lei pensa, meglio tardi che mai o troppo tardi? Meglio tardi che mai, io penso che Dio buono, non ci voleva mica un genio per capire cos'era la Cina, bastava osservare, guardare, vedere come assorbe la tecnologia, vedere come il sistema ha fatto progressi per capire che non potevamo star fuori da un rapporto con la Cina. Io dico finalmente meglio tardi che mai, cerchiamo di recuperare il tempo perduto, perché se non si è in Cina è come non essere negli Stati Uniti, quindi non, anzi ancora di più, è non avere i piedi nel mondo. Ecco. Ma se lei fosse Presidente del Consiglio o le venisse chiesta una consulenza in questo momento? Non c'è mica rischio. Dica. No, che la chiedano o che diventi Presidente del Consiglio? Che io diventi Presidente del Consiglio. Vabbè, ma metta che le chiedano una consulenza, visto che lei conosce, ha rapporti così intensi con la Cina, che cosa suggerirebbe lei al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia, per rinforzare i rapporti, visto che mi sembra che quella stia diventando una sponda utile anche sul debito pubblico? Ma prima di tutto ai cinesi devo dire la verità, una roba, cioè i cinesi hanno la memoria che è incredibile, quindi bisogna impostare i problemi nel lungo periodo, dire chiaramente quello che si vuole e essere duri ma consistenti, duri ma leali. Questo è quello, è il consiglio che con cui bisogna fare con la Cina, no? Ripeto, c'è una memoria storica che fa impressione, no? Si ricordano i miei primi viaggi nell'85, qualcosa che fa, ripeto, che fa una grandissima impressione. Quindi bisogna impostare un discorso di lungo periodo, vedere sul tavolo quali sono gli interessi nostri, quali sono gli interessi loro e prendere decisioni in cui ognuno delle due parti guadagni qualcosa, molto concreti e molto chiari. Certamente ai cinesi interessa molto il discorso europeo globale, perché non è vero che inneggino ai G2, al rapporto diretto e isolato con gli Stati Uniti. Loro hanno fascinazione per gli Stati Uniti, ma hanno anche paura di essere schiacciati in un rapporto diretto. Quindi per loro l'Europa è davvero un interlocutore di importanza straordinaria. D'altra parte, quando si stava costruendo l'euro, il presidente cinese, mi ricordo benissimo, allora era Jiang Zemin, che mi diceva: a noi interessa l'euro perché vogliamo vivere in un mondo in cui non ci sia un solo padrone, ma noi preferiamo che ce ne siano di più di uno. Naturalmente pensavano anche al futuro in cui vi sarà in questi, tra questi protagonisti, anche lo yuan, anche la moneta cinese, ma il discorso era chiarissimo: vogliamo un'Europa come interlocutore, e l'Italia deve capire che la Cina ha degli interessi di lungo periodo in Europa e deve favorire i propri interessi in modo da avere rapporti di lungo periodo. Senta, ancora due domande, poi la lascio andare, anche vista l'ora in Cina. Quando le dice che i cinesi hanno la memoria lunga, si riferisce anche a quella battuta del Presidente del Consiglio Berlusconi sul fatto che bollivano i bambini e poi concimavano i campi? Cioè, certo, è rimasta... Certo, ha la memoria lunga su tutto. Lei non ha idea, è un paese che ha memoria. È una roba strana, no, l'Italia non ha memoria. Ha una particolarità proprio di bruciare giorno per giorno le notizie, i problemi, eccetera. Quindi anche le cosacce in fondo vengono perdonate. La Cina ha una memoria impressionante. Sulla memoria cinese, lei mi dice quindi non è intervenuto sul fronte aiuti all'Italia, sulle obbligazioni e partecipazione del China Investment Corporation. Non avete parlato di questo oggi anche col futuro premier cinese? No, assolutamente. Primo perché non ne voglio parlare io. Secondo perché i cinesi sono abbastanza intelligenti per capire che se dicessi qualcosa io, il mio governo farebbe forse diversamente, non lo so, ecco, però... Apposta? A scampo di equivoci abbiamo trascurato il problema. Cioè, ma se per ipotesi, diciamo... Abbiamo parlato di tantissime cose, dal Mediterraneo ai problemi appunto dell'euro, visto come fatto globale, di questi problemi li abbiamo davvero approfonditi. Sull'Italia mi sembrava giusto e di stile non toccarlo. Ecco, ma se per ipotesi le venisse chiesto di intermediare dal governo, chiaramente col China Investment Corporation, lei lo farebbe? Cioè, se Tremonti o Berlusconi le chiedessero, diciamo, di mediare, visti i suoi rapporti? Non credo che mi venga chiesto, ma io sono sempre a servizio del mio paese, come nei discorsi generali ho sempre messo in rilievo in questi giorni, e credo che sia stato importante che l'Italia è un grande paese, che ha ancora una struttura industriale che ha qualcosa da dire, e soprattutto che non siamo in situazione come spesso viene descritta dall'esterno, che abbiamo assolutamente la possibilità, cessata o diminuita questa tensione speculativa, di riequilibrarci. E su questo, sulla riassicurazione sull'Italia, io sono sempre stato chiaro, perché ripeto, sono al servizio del mio paese, quindi qualsiasi cosa che mi venga chiesto per il bene del mio paese la faccio, ma non penso proprio che nulla di simile possa accadere. Allora, Presidente Prodi, sa che alcuni, in questo periodo in cui la Germania nicchia molto sugli aiuti all'Europa, dicono forse nell'euro non dovevamo entrare. Insomma, lei è stato l'artefice, veniva da governi tecnici importanti, ci mancherebbe, Ciampi, Dini, Amato, ma dell'ingresso nell'euro. Secondo lei siamo entrati troppo alti? Cioè, è stato fatto male l'euro, o in realtà la Germania ha ragione, non si immaginava di dover aiutare e pagare il debito e i lussi dell'area mediterranea dell'euro? Siamo entrati troppo alti, c'era chi voleva entrare molto più basso, e il massimo a cui si pensava era 1000, siamo entrati a 990, quindi è stato sotto questo aspetto è stato un trionfo dal punto di vista contrattuale, non c'è alcun dubbio. Il problema è che avevamo allora un debito elevato, col mio governo l'ho diminuito entrambe le volte, poi è ritornato al livello di prima, ma come io ho detto agli interlocutori cinesi, non c'è nessun aspetto drammatico nella situazione italiana. Certamente se c'è la speculazione diretta verso un qualsiasi paese europeo, un qualsiasi, Spagna, Italia, potrebbe essere anche la Francia, e non c'è solidarietà, nessuno di questi paesi resiste. Per questo la via o degli eurobond o un'altra via di solidarietà è inevitabile. Capisco che per problemi politici la Germania non li voglia, allora per quello che abbiamo riflettuto su un discorso di garanzie reali di oro per proteggere gli eurobond in modo da tranquillizzare i tedeschi, potranno essere altri sistemi, ma è chiaro che noi dobbiamo costruire un meccanismo di solidarietà europea per il bene stesso della Francia, dell'Italia, della Spagna e di tutti i singoli paesi che individualmente presi sono fragili di fronte alla speculazione internazionale. Se noi facciamo un buco di 3 miliardi di euro di difesa dei bond dei paesi europei, non ci attaccherà mai nessuno. Questa è la differenza. Allora, dica una risposta molto secca, Presidente Prodi, ma la Germania ha sbagliato ad avere un atteggiamento come quello dei giorni scorsi, a partire da Jürgen Stark, le dimissioni, questa polemica molto forte, o è comprensibile? La Germania, mica solo nei giorni scorsi, la crisi greca era affrontabilissima, era piccola, la mettevamo a posto in un attimo, con due soldi, e poi si obbligava la Grecia ovviamente ad aggiustarsi nel lungo periodo e se le dava respiro. Col rinviare, i piccoli problemi sono diventati grandi e alla Grecia si è aggiunta l'Irlanda e poi si è aggiunta il Portogallo, poi si è aggiunta la Spagna e poi ci siamo aggiunti noi. Qui ci vuole leadership, bisogna decidere, insomma. Una decisione presa in ritardo non è una decisione. Chi ha logito sulla Germania? L'ultima domanda invece riguarda la manovra finanziaria, lei già l'ha commentata nei giorni scorsi, ma insomma gli ascoltatori vorrebbero sapere se, è una domanda che ho fatto anche a molti ospiti al workshop Ambrosetti a Cernobbio, se lei sarebbe disponibile ad accettare o una riduzione della sua pensione o una tassa patrimoniale, cioè se lei ritiene che i sacrifici debbano essere fatti a partire dalle fasce di reddito più alte, sì, e se ritiene che nonostante questa manovra vi sarà bisogno di una manovra correttiva probabilmente. Senta bene, io ritengo che dopo gli errori di agosto bisogna fare degli interventi a tutto campo. Ho scritto un articolo sul Messaggero proprio in questa linea, che agosto ha cambiato la situazione e adesso bisogna suonarli piano con tutti i tasti. E riguardo ai sacrifici per la fascia di reddito più alto, mi sembra giusto che chi ha le spalle più robuste paghi in proporzione più degli altri. Ma ripeto, agosto, il ritardo del litigio di agosto ha fatto fare un salto di dimensione alla necessità di correzione politica da parte dell'Italia. Quindi lei dice anche lei sarebbe disposto a fare un sacrificio, immagino che insomma abbia un reddito abbastanza buono. Certo, io sostenevo, io ho chiaramente criticato molte misure del governo, ma non quella di aumento della tassazione all'imposizione ai redditi più alti, perché mi sembra che non prendi sacrificio, chi più ne ha ne deve dare di più, ma non c'è mica dubbio. Ma secondo lei alla fine categoria di redditi più alti. Secondo lei alla fine si arriverà a un bisogno di una patrimoniale? Cioè in Grecia, dopo aver tentennato per un anno e mezzo, hanno dovuto imporre la patrimoniale sulle case e nelle zone di lusso. Cioè, alla fine, secondo lei, si arriverà anche in Italia? C'è il rischio che si arrivi a una patrimoniale anche da noi? Oppure, tutto sommato, tra IVA e innalzamento forse dell'età pensionabile, si può evitare? Vediamo le decisioni finali della finanziaria. Ripeto, agosto ha compromesso la possibilità di agire solo con un tasto. Speriamo che venga posto rimedio, insomma, nelle decisioni finali. Ecco, io ripeto, sono ormai 15 giorni che sono fuori dall'Italia, quindi mi manca quest'ultima parte del dibattito. Ritengo, ripeto, difficile che si possa aggiustare a lungo periodo senza rimedi drastici. E non sa cosa si è perso in questi 15 giorni. Comunque poi quando torna il dibattito è andato avanti, come può immaginare. No, forse forse le conviene però, restare in Cina. Dopodomani arrivo e quindi recupero, mi aggiornerò, ecco. Vabbè. Va bene, nel frattempo grazie al presidente Romano Prodi, appunto in Cina. Grazie a lei e a presto. Grazie ancora, buonanotte, visto che è mezzanotte passata. In Cina, saluto intanto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Alberto, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Ti chiedo qualche minuto di pazienza perché abbiamo il metodo e la pubblicità e poi ci aggiorni anche tu sugli sviluppi della manovra. Domani il Sole 24 Ore esce con un numero praticamente monografico sulla manovra stessa. Tra qualche minuto 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Molti commenti che stanno arrivando al 349-238-6666 sull'intervento che abbiamo avuto con l'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi in Cina per un giro di incontri e di lezioni. Prodi da sempre ha un rapporto molto stretto con la Cina. Sintetizzo, adesso non possiamo rispondere a tutti gli sms, però ha detto Prodi che da un lato meglio tardi che mai l'avere recuperato, il cercare di recuperare un rapporto con la Cina, con dei cinesi che hanno la memoria lunga, e hanno la memoria lunga anche di alcune nostre dichiarazioni, penso che si possa dire in maniera tranquilla, improvvide, cioè citare il fatto che i cinesi bollivano i bambini per concimare i campi non è il modo migliore per avviare delle relazioni, diciamo, commerciali con la Cina, così come le battute in generale non lo sono. Ancora, per quello che riguarda l'aiuto che sarebbe disponibile a dare, ha detto non mi chiameranno, ma se dovesse il governo italiano chiedere un aiuto, una mediazione, sarei disponibile. Ancora, per quello che riguarda invece i problemi italiani in Cina, noi siamo bassissimi, questo lo dico io come inciso, siamo al 20° posto negli scambi commerciali con la Cina, dietro a paesi molto molto più piccoli di noi, penso per esempio al Canada, ma non solo, piccoli di noi come export. Dice che c'è stato un ritardo storico che va recuperato. Ancora, e concludo sulla Germania, netto il giudizio, diciamo, molto critico sulla Germania, se ho ben capito, accusata anche di aver contribuito non poco a far ingigantire la crisi greca, che si poteva risolvere, cito testualmente, spendendo pochi soldi un anno e mezzo fa. E infine, sulla disponibilità al sacrificio, giusto che paghino i redditi più alti, anch'io rinuncerei a parte della mia pensione. E adesso, Alberto Orioli, ti ha fatto scalpore qualcosa nelle dichiarazioni di Prodi? Mi sembravano... Lui ha negato di avere parlato con il fondo sovrano cinese, io su questo, sai, forse non ce lo poteva dire. Alberto? Beh, sì, penso un po' di prudenza, come dire, che lo ha tenuto coperti di alcuni degli argomenti di cui inevitabilmente avrà parlato, seppure magari in modo informale, ma comunque immagino che gli abbiano chiesto qualche consiglio, visto che alcune delle società in cui i cinesi vorrebbero investire sono il retaggio delle vecchie partecipazioni statali che Prodi conosceva bene. Insomma, ecco. Ha fatto il presidente dell'IRI e ne ha privatizzate parecchie di queste, bene o male, a seconda dei critici o degli adulatori, ma insomma questo è stato. Per quello che riguarda le dichiarazioni, insomma... lasciamo stare, meno si parla delle volte in politica meglio è, certe dichiarazioni, però l'ho detto chiaramente, i cinesi hanno la memoria lunga, lo posso nel mio piccolo confermare, perché voi nemmeno sapete quale sia stata la reazione di certi imprenditori cinesi a certe parole pronunciate in Italia. Andiamo sui nostri temi, Alberto, insomma la finanziaria è ormai questa finanziaria, e cosa fate? Voi domani dedicherete che cosa? Un dorso intero del Sole 24 Ore? Noi domani faremo un giornale speciale da conservare di questi numeri che non sono mai stati fatti in questo modo. A futura memoria. Esattamente, un primo dorso di oltre 30 pagine, tutto dedicato ai temi della manovra, poi un secondo dorso che sarà, diciamo così, il giornale normale, e infine il terzo dorso non consueto su finanze e mercati, quindi un numero sicuramente da collezione. Da collezione anche così, a memento di beh, forse, diciamo, collezione su cose da non ripetere. Ecco, forse. Beh, come ben sai, il momento è importante per la storia del paese, come dire, è un tornante delicato, il giorno del Sole 24 Ore con il suo patrimonio di interpretazione di servizio per chi vuole capire cosa sta succedendo, ha messo in campo tutte le sue energie. Allora, oggi abbiamo visto, la manovra è passata, la fiducia alla Camera alle 2:30 del pomeriggio, 316 sì e 302 no, quindi 14 voti di differenza. Abbiamo visto nuove dichiarazioni però della Presidente di Confindustria Marcegaglia, molto critica sulla manovra, Alberto. La linea è quella che ha manifestato anche nel corso della settimana scorsa, molto netta, sottolinea da qualche tempo come manchi la parte dedicata allo sviluppo, che il governo si è premurato di affidare a prossimi provvedimenti, allargando i contatti con le parti sociali, ma è chiaro che da questa enorme finanziaria, enorme manovra che viene organizzata dal governo, non c'è una parte che dia tranquillità ai mercati, che dà una prospettiva, una traiettoria di crescita. Crescita è la parola magica che tutti pronunciano in questo momento, ma che manca totalmente da questa finanziaria, da questa manovra, scusa. Ecco, chiedo a te quello che ho chiesto anche prima a Prodi. Adesso io non vorrei portare sfiga, abbiamo già il gufo, che sennò il gufo barese che è pronto, però c'è nell'aria l'idea che servirà forse una manovra correttiva, o è ancora troppo presto per dirlo? Guarda, non voglio associarmi, come dire, a... Attenzione che il gufo pugliese è pieno di burrata e orecchiette, diciamo, quindi cattivissimo. Resta ai fatti. Se dopo la correzione della manovra, che ha portato l'entità complessiva dell'operazione del governo a 54 miliardi, ci si aspettava che lo spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi, che come sappiamo sono quelli dello stato migliore della classe, si abbassassero, i mercati hanno dato l'indicazione esattamente contraria. Siamo andati ieri addirittura oltre quota 400, oggi siamo a 377, se non abbiamo cambiato qualcosa. Siamo in zona comunque borderline, diciamo così. Gli analisti, come sai bene, ritengono che la curva della ripresa in Italia possa partire quando il tasso fisiologico e lo spread fisiologico diventa 250, e senza gli aiuti che la BCE ci sta offrendo comprando i titoli italiani. Quindi la strada da fare, francamente, è ancora moltissima e i rischi ci sono. Sì, fai bene a ricordare che, insomma, lo spread, purtroppo, c'è la differenza tra quanto dobbiamo offrire noi per trovare finanziatori per il debito e quanto deve offrire la Germania, è tornato a un livello pre-manovra. Cioè, questo è il problema, certo. Esattamente. Come dire, 380 punti, noi e sempre un livello superiore alla Spagna. Prego, esatto, questo è l'altro cosa, due cose. Siamo costretti a pagare di più gli interessi sul debito, evidentemente neutralizzando alcune delle nuove entrate che erano state preventivate in manovra da destinare a copertura del deficit vecchio, e questo è un brutto dato. E l'altro è questo peggioramento che viene fuori dai mercati in questi giorni, in cui sostanzialmente la valutazione degli operatori dà più fiducia alla Spagna che non all'Italia. Ci sono quasi 20 punti di differenza, che non è poco, è un fatto storico, non era mai successo, e questo francamente è un'indicazione, come dire, molto politica, nel senso che i fondamentali dell'economia italiana sono assai migliori di quelli della Spagna, ma purtroppo non questo tipo di valutazione non si riflette nell'opinione che i mercati hanno in questo periodo del nostro paese. Allora, no, una precisazione, perché chiedono alcuni ascoltatori se il Sole 24 Ore sarà tutto sulla manovra. No, sarà una parte, un dorso. Ci saranno 30 pagine sulla manovra e le altre saranno destinate agli altri temi dell'attualità, come sempre, naturalmente, ma con un impatto assai più robusto, soprattutto sulla parte che riguarda la politica economica. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Allora, adesso ci sono le informazioni sul traffico, poi andiamo a commentare la borsa. Un paio di risposte velocissime da alcuni sms arrivati al 349-238-6666. Sulle battute fatte, sì, vabbè, Gasparri, lasciamolo stare. Io parlavo di Berlusconi da un lato e di Tremonti con quel libro. Allora, attenzione, ci scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma Berlusconi ha ricordato una cosa che avvenne durante il maoismo, milioni di morti e addirittura casi di cannibalismo nelle campagne, di bambini bolliti e quant'altro. Mettiamoci d'accordo, se vuoi intrattenere rapporti con un paese, con un'economia che è la seconda al mondo e diventerà la prima, secondo me non è una grande linea ricordare quello che è successo 20 anni fa. Cioè sarebbe come se un paese, per avere rapporti commerciali con l'Italia, si mettesse a ricordarci che abbiamo usato i gas nervini con gli etiopi o quello che è successo durante il fascismo. Non mi sembrerebbe un gran approccio per avere delle grandi relazioni diplomatiche con il nostro paese. Se poi ricordiamo anche, visto come la tirate fuori, che il Presidente del Consiglio non è andato in visita all'Expo a Shanghai, dove era atteso, e noi siamo il paese che ospiterà il prossimo Expo, sono passati tutti i Presidenti del Consiglio d'Europa tranne il nostro, che il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla nemmeno si è recata all'Expo a Shanghai per il passaggio di consegne, e noi siamo il paese che ospita, vabbè. Allora poi i rapporti con la Cina vengono facilitati, chiaramente. Traffico. minuti, adesso commentiamo la borsa, ma a partire anche Ceo Condi nella Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Ceo, non vedo il collegamento, comunque c'è negli studi di Milano anche Walter Riolfi del Sole 24 Ore, con cui volevo partire prima. Walter, buonasera, mi senti? Buonasera, mi sento bene. Ecco, scusaci, ma siamo anche noi in esterna da Bari, perché oggi la giornata di borsa, la notizia di borsa più importante non arriva dall'Italia, per fortuna, ma dalla Francia, ossia Moody's ha tagliato il voto a due colossi bancari francesi come Société Générale e Crédit Agricole, mentre BNP Paribas ha annunciato che cederà qualcosa come 70 miliardi di asset, di partecipazioni. Pochi istanti fa è arrivata la notizia che BNP Paribas ha smentito di aver ricevuto aiuti dalla Banca Centrale Europea. Oggi la Banca Centrale Europea aveva detto che aveva prestato con un prestito a 7 giorni mezzo miliardo di euro ad alcune banche europee. Che cosa è successo in Francia? Beh, tutto sommato la reazione al taglio di Moody's è stata piuttosto contenuta e ha prodotto dei guasti, tutto sommato, non così gravi ai titoli in questione. Infatti i titoli bancari dello Stoxx, le uniche perdite le abbiamo viste tra i titoli francesi, le uniche perdite consistenti, cosa del 3-4%, solo Sogen ha perso un po' di più, ma non ha avuto ripercussioni così gravi sull'intero listino dei bancari e nemmeno sui listini di borsa, le quali hanno chiuso moderatamente positive. Quindi, se a giudicare dalla reazione, sembrerebbe che le cose non siano andate poi così male. Certo, puoi dire, il declassamento di Sogen, di Crédit Agricole, come pure il Credit Watch, la messa sotto osservazione di BNP, erano più o meno attese e già state telegrafate nei giorni scorsi. In ogni caso, la reazione non è così negativa, l'hanno rilevata anche non solo gli operatori. Il motivo per cui è arrivata a questo declassamento del voto sulle banche francesi, perché nel passato abbiamo detto forse i timori sull'esposizione verso alcune controllate italiane, però insomma BNP Paribas che controlla BNL non ha avuto nessun abbassamento di voto, forse l'esposizione sui derivati. Il motivo vero di questa fragilità con cui si è iniziata la settimana sulle banche francesi, Walter? Beh, il motivo è sempre quello dei debiti sovrani. Queste, le banche francesi, come le banche italiane, che già erano state bastonate prima, hanno nei portafogli una notevole quantità di titoli dei paesi a rischio, Grecia, Portogallo, Irlanda, che quello si sapeva e sono anche abbastanza gestibili quelli, ma sono pieni di nostri BTP. E col BTP che è sceso bruscamente il rendimento al 6,5%, al 6%, quindi il valore dei titoli in portafoglio è diminuito. Così che per esempio BNP, tra le altre cose, siccome BNP ha degli asset, delle attività finanziarie estremamente vaste, un attivo molto vasto in bilancio, è costretta a vendere qualcosa per fare cassa. Quindi i motivi sono sempre quelli. E quindi non c'è nulla di nuovo. Diciamo che ieri e poi oggi si sono aggiunte le preoccupazioni sui finanziamenti che le banche francesi, specialmente francesi, possono avere, quindi finanziamenti semplicemente overnight. Ieri il Wall Street riporta aveva riportato il commento di una fonte anonima del gruppo BNP che diceva che abbiamo grosse difficoltà a finanziarsi in dollari perché le banche americane non si fidano, non ci danno. Certo. Non ci danno. Allora, la cosa è da una parte vera, perché le banche americane diffidano delle banche europee in questa situazione e quindi sono restie a finanziare le banche europee. Ma dall'altra non è una cosa così grave, perché la Fed da sempre ha aperto una finestra con la BCE e attraverso la BCE finanzia tutte le banche italiane europee che desiderano avere finanziamenti in dollari. E poi, se non funzionasse anche questa soluzione, ce n'è un'altra: uno si indebita semplicemente in euro dalla BCE che distribuisce che euro tutti e li attraverso le operazioni swap li trasforma in dollari. Quindi quell'articolo del Wall Street era abbastanza pretestuoso. Sì, sono assolutamente d'accordo con te e ti ringrazio. Grazie Walter, io chiedo a Cio Conan di attendere ancora un po', perché oggi una notizia di borsa forte al di là delle turbulenze di mercato riguardo al gruppo Finmeccanica e Ansaldo STS. Ansaldo STS più 20%, Finmeccanica più 17%, nell'ipotesi che venga ceduta sia Ansaldo STS che Ansaldo Breda a General Electric. Poi qualche risposta, insomma, dite: ma insomma lei sta rovinando la reputazione del governo con i suoi interventi. Guardate, troppa grazia, ci pensa da solo, ognuno può pensare come vuole, ma ripeto, la posizione mia non cambia. Certe dichiarazioni non facilitano i rapporti con certi paesi. GR. E 8 minuti di nuovo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari con Focus Economia e con voi Sebastiano Barisoni. Allora, non posso commentare ancora i messaggi che stanno arrivando dopo l'intervento di Romano Prodi, che abbiamo chiamato in quanto è uno dei politici o ex politici italiani che ha maggiori rapporti con la Cina, e visto che il tema di questi giorni mi sembra arriverà o no il Cavaliere Bianco cinese ad aiutarci sul debito a comprare alcune partecipazioni italiane. Prodi la Cina la conosce bene, tant'è che era in collegamento da Pechino, dove sta compiendo un giro di lezioni, un giro istituzionale. Allora, è vero, la DR ha rinunciato ad acquisire lo stabilimento Fiat nel sud, adesso ne parleremo. A chi dice che siamo diventati comunisti? Vabbè, perché abbiamo avuto Prodi ospite o perché parliamo dei cinesi, non lo so. Non oso pensare a cosa dirà quando tra pochi minuti arriverà il nostro ospite, il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ma tanto siamo pronti a tutto. Vorrei invece continuare con i mercati finanziari, perché oggi, al di là del recupero complessivo, Francoforte, Parigi, più 1,90% Parigi, più 3,30% Francoforte, più 2,70% Milano, c'è un caso specifico di borsa che riguarda Finmeccanica e la sua controllata Ansaldo STS, che produce segnaletica ferroviaria, più 17% quasi Finmeccanica, più 20% Ansaldo STS. C'è voci di possibili cessioni a General Electric? Sì, voci pubblicate dal Tirreno di oggi, secondo il quale appunto il colosso americano potrebbe, diciamo, rilevare sia una parte oppure tutto Ansaldo STS e Ansaldo Breda, in particolare le parti di queste aziende controllate da Finmeccanica legate al business ferroviario. Ricordiamo che Finmeccanica e anche Ansaldo nei mesi scorsi hanno pagato parecchio terreno in borsa, si era parlato di dismissioni, questa potrebbe essere una di quelle, e ovviamente i titoli oggi sono balzati, Ansaldo più 20%, Finmeccanica più 17% quasi per cento. Ancora, bene anche Steel Microelectronics oggi, senza notizie di acquisizioni o cessioni, però notizie che arrivano dagli Stati Uniti. buon andamento, 11,6%, sì, più 11,6%, è stato uno dei migliori titoli di Piazza Affari, il migliore del CAC di Parigi. Grande rialzo per le notizie sull'ottimismo da parte degli operatori del settore sui chip in America, in tutta Europa comunque anche i chip sono andati molto bene, le aziende legate a questo settore hanno ben performato in borsa. ST, che comunque ricordiamolo veniva da pesanti rovesci nelle ultime sedute, ha dunque cavalcato, ha guadagnato più 11,6%. Sì, molto bene anche Fondiaria Assai oggi, più 10,53%. Fondiaria Assai ha recuperato, adesso è a 1,33 euro, ricordiamolo che è ancora sotto l'1,5 euro dell'aumento di capitale che si è svolto durante l'estate. Oggi tutto il settore assicurativo è andato molto bene, anche a guardare in Europa, quindi Fondiaria Assai fa parte di questo segmento e ne ha giovato. Poi chissà, magari qualche operatore di Piazza Affari è tornato a essere positivo, ottimista sul possibile ritorno alla redditività della compagnia un tempo controllata solo dalla famiglia Ligresti. Bene anche Fiat più 7,31, Exor, la controllante finanziaria più 6,50, Pirelli più 6,13, Fiat Industrial più 6,12, Prismian più 5,40%, Banco Popolare più 5,12, Mediolanum più 4,80, Mediaset più 4,40, Snam Rete Gas più 4,20, chiudiamo con Azimut più 3,80, Telecom più 3,76. E su Telecom c'era un'indiscrezione oggi anche del Sole 24 Ore. Sì, oggi dovrebbe essere decisa dal CDA della controllata brasiliana Team Participa Coes una ricapitalizzazione da circa mezzo miliardo di euro per sostenere lo sviluppo nella fibra ottica e nel 3G, quindi un ulteriore investimento in un mercato, quello del Brasile, che in pratica negli ultimi anni ha di fatto rappresentato il principale sostegno al business di Telecom Italia e quindi diciamo entusiasmo degli operatori di borsa. Unicredit, unico bancario e praticamente unico titolo tra quelli maggiori a essere negativo, meno 1,6%. Qui paga le voci sempre più insistenti, che ormai non si possono più chiamare voci, di un aumento di capitale. Ricordiamo che l'amministratore delegato Federico Ghizzoni ha dichiarato al Financial Times che nel caso si rendesse necessaria una ripatrimonializzazione i grandi soci darebbero il proprio sostegno, e se un amministratore delegato parla in questi termini l'aumento di capitale è insomma abbastanza scontato. E quindi tu ci confermi che insomma si intensificano le voci di un possibile aumento di capitale del gruppo Unicredit. Vi do anche i migliori e i peggiori in assoluto. Oggi sul mercato il migliore la Lazio 22%, poi Ansaldo abbiamo detto, Gas Plus più 19,7%, Finmeccanica abbiamo detto, Dada più 15,36%. I peggiori in assoluto invece Meridi SPA meno 8,6%, Carraro meno 5,12%, Digital Brothers meno 7,16%. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Grazie a voi. Allora, ultima parte di Focus Economia. Abbiamo iniziato con Prodi. Un inciso fatemelo fare, non devo giustificarmi su nulla, però qualcuno di voi che segue questo programma ricorderà le critiche che muovemmo a suo tempo alla manovra finanziaria di Prodi e Padoa-Schioppa, durissime, per cui non ho nessun senso di colpa. Criticammo la manovra finanziaria di allora, critichiamo quella di adesso, non mi sembra che siamo da soli, qualcuno diciamo la pensa come noi. Sul comunista, guardate, si è beccata della comunista anche Madonna, la cantante, per cui, però forse un comunista vero, forse non più. Ci ha raggiunto in studio, la battuta me la faccia passare, il governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola. Buonasera e grazie innanzitutto. Buonasera a voi, grazie a voi. Allora, al di là delle critiche che arrivano da alcuni ascoltatori, invece con lei vorrei parlare sia di Regione Puglia, perché siamo ospiti della Fiera del Levante e su questo abbiamo visto iniziative interessanti con qualche criticità, e poi arrivare invece al commento sulla politica nazionale. 349-238-6666 per i vostri sms, andiamo subito col traffico. 18:17, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Allora, al governatore della regione Puglia, Nicky Vendola, andiamo subito con le domande anche qui concrete. Voi avete annunciato un piano per il lavoro molto importante, ben visibile qui alla Fiera del Levante. Domanda molto secca, qual è la differenza tra aiutare chi cerca un lavoro, le imprese che vogliono assumere le piccole, e fare assistenzialismo, in questo caso magari regionale, non più statale? Ma noi abbiamo provato proprio a emanciparci da qualunque idea di assistenzialismo. L'assistenzialismo significa vivere in un'ottica di sopravvivenza, non seppellire i morti. Per me è molto importante seppellire i morti, fare i conti con le produzioni che non hanno mercato, che sono obsolete, e invece spingere sull'acceleratore dell'innovazione. Allora, per esempio, al centro del nostro piano per il lavoro, che è di 340 milioni di euro, c'è l'idea della nascita delle imprese innovative. Abbiamo costruito i distretti dell'innovazione tecnologica in settori chiave, dalla meccatronica all'high tech nell'agroalimentare, all'avionico. Cioè, vogliamo aiutare le imprese a crescere dimensionalmente, a internazionalizzarsi, ma a investire sull'innovazione di processo e di prodotto. Questi sono i punti fondamentali, e qui cerchiamo di far incrociare domanda e offerta di lavoro, imprese e giovani generazioni. Allora, Presidente Vendola, due o tre tematiche pugliesi, poi passo anche al piano nazionale. Rapidissimo, la spesa sanitaria in Puglia tocca l'80% quasi del budget della regione, mi sembra molto alta. Da sempre la Puglia ha un problema non legato solo agli scandali, ma proprio al tema della sanità. Perché volete fare il San Raffaele a Taranto, visto che il San Raffaele, quello a Milano, insomma, ha qualche buchetto da mezzo miliardo di euro? Ma intanto tutte le regioni hanno quasi l'80% del loro bilancio mirato sulla sanità, perché è in tutta evidenza la competenza che più comporta relevante, più costi. Noi abbiamo in questi anni cercato non soltanto di uscire fuori da una condizione di arretratezza complessiva. Lei pensi che le grandi macchine della mia regione nel 2005 erano vecchie di almeno 30 anni. Non si può fare un attack oggi con un vecchio macchinario. Bisogna investire in modernizzazione dell'offerta anche dal punto di vista infrastrutturale. Taranto è una città particolare, è una delle città più belle e più disperate del Mediterraneo. È disperata perché la quantità di veleni che si sono depositati nel mare, nel terreno e nell'aria nel corso dei decenni, a causa di un processo di industrializzazione abbastanza vorace, no? Lei sa che non è che l'Ilva è a Taranto, ma Taranto si trova dentro la grande fabbrica, e le diossine, i furani, come gli altri veleni, hanno veramente assediato quella città. Abbiamo percentuali di patologie terribili, come il cancro e la leucemia, che coinvolgono i bambini, rilevanti. Nel 2005-2006 io avevo di fronte una classe dirigente, diciamo, al di sotto di ogni sospetto. Il municipio di Taranto ha prodotto in quegli anni il dissesto finanziario più grande della storia d'Italia. Avevamo un sistema sanitario come quello tarantino con poche eccellenze e anche con un po' di malavita, diciamo così, entrata dentro i propri interstizi. In un ospedale abbiamo trovato la trappola per i topi nelle cucine. Allora, io ho bisogno non di costruire un'operazione propagandistica, ma di provare sul ciclo della salute a costruire una delle piste di futuro per lo sviluppo economico di Taranto. Devo dare delle risposte. E allora ho pensato a un grande ospedale, ma insieme dei campus universitari e dei laboratori di ricerca. Qual è l'IRCS, cioè l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, al primo posto in Italia? Di gran lunga, secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il San Raffaele di Milano. E la prima obiezione che mi hanno fatto era: ma il San Raffaele significa Don Luigi Verzè, che è amico di Berlusconi. Io ho detto, beh, forse avremo più facilità a recuperare i finanziamenti necessari per la città di Taranto. Io, quando penso ai miei concittadini, non penso di fare sulla pelle loro le mie guerre ideologiche. Penso di dover fare anche il patto col diavolo, se serve ad aiutare la Puglia. Quindi, da questo punto di vista, aveva ragione il sindaco Renzi a andare ad Arcore? Cioè, lei andrebbe anche ad Arcore? Io non sono andato ad Arcore. Credo che si possa discutere nelle sedi istituzionali, che si possa collaborare quando questo è possibile per il bene della comunità, senza bisogno naturalmente di andare a casa del re. E chiudiamo su Serafelle perché ho ancora qualche domanda per lei, ma costerà di più alla struttura sanitaria pugliese questo accordo con Serafelle a Taranto, sì o no? Cosa abbiamo fatto? Una fondazione in cui il privato, cioè il San Raffaele, mette soltanto la gestione sperimentale per 3 anni. La struttura è pubblica, sono 150 milioni che restano a Taranto, sono della ASL, e se la ASL giudicherà negativamente quella gestione sperimentale diremo arrivederci, grazie, continueremo, ma è una struttura pubblica. Ecco, no, questo era importante chiarirlo. Un'ultima battuta sui problemi pugliesi. Voi avete avuto una politica sulle fonti rinnovabili molto importante, abbiamo visto anche i dati, obiettivamente c'è stato un impulso anche superiore a quello di altre regioni. Perché è ancora bloccato il rigassificatore a Brindisi, che sappiamo che non inquina, diciamo, libera l'Italia dal vincolo con Algeria e Russia? Da sempre chiediamo il rigassificatore, la British Gas è pronta, ha fatto numerose proposte, cos'è che lo blocca? Ma intanto la procedura è stata sbagliata, visto che è stata in qualche maniera oggetto dell'attenzione giudiziaria. Qualcuno pensava che la Puglia fosse terra da colonizzare e da questo punto di vista gli inglesi hanno sbagliato molto l'atteggiamento. Pensavano che si potesse comprare tutto, ma la città di Brindisi, accompagnata dalla regione, ha pensato che il proprio sviluppo è nel rapporto col mare. Mettere un impianto di rigassificazione nella pancia della città è stato rifiutato dalla città. Io credo che non si possa più immaginare che lo sviluppo di un territorio si faccia con scelte che calano dall'alto e che non vengano condivise dai cittadini. E poi da me che cosa si vuole? Io ho portato la Puglia al primo posto nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Siamo, diciamo, una regione che consuma il 13% dell'energia che produce. Cioè la Puglia regala all'Italia l'87% dell'energia che produce. Cioè abbiamo da essere ringraziati, non da dover cedere ancora a che cosa? All'idea di chi viene qui a proporci un impatto ambientale devastante, oppure di chi viene qui, e questo è un riferimento al ministro dell'ambiente Prestigiacomo, pensando che la nostra ricchezza si debba trovare trivellando i fondali dell'Adriatico alla ricerca di petrolio. Il nostro petrolio è il mare, è la bellezza del paesaggio, è la nostra cucina, e non il petrolio. Ho capito, quindi questo pone la parola fine sul rigassificatore a Brindisi, secondo lei? Sì o no? Per noi la parola fine è stata già detta tanto tempo fa. Una battuta sui fondi strutturali europei, che saranno sempre meno. Voi li riuscite a spendere? Noi li spendiamo tutti. Naturalmente l'andamento è sempre stato, diciamo, molto lento nella prima fase e molto veloce nella fase finale. Però vorrei ricordare che la regione non è quasi mai la stazione appaltante. Noi siamo quelli che individuano le grandi opere e quelli che inseguono le stazioni appaltanti, perché ci diano i rendiconti, ci diano le fatture. Le stazioni appaltanti sono intanto i ministeri, che sono quelli che spendono peggio e più lentamente di tutti, e qualcuno dovrebbe raccontarlo qualche volta. Poi le stazioni appaltanti sono l'ANAS, le Trenitalia e poi sono i comuni. Ma la verità è che non è che i comuni, ecco, sono governati da sadici che non vogliono spendere le risorse europee. C'è un problema di discrasia tra i regolamenti comunitari e le leggi nazionali. Le faccio solo un esempio. L'Europa dice che noi dobbiamo progettare, appaltare e realizzare un'opera in 3 anni. Se lei va sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, scopre che per una grande opera, mediamente in Italia, ci vogliono dai 12 ai 20 anni di tempo per la sua realizzazione. Chiarissimo l'esempio. Allora, ho 3 minuti scarsi per affrontare la politica nazionale, ed è un compito, poi insomma lei è bravo dialetticamente. Allora, Montezemolo in politica, sì o no? Andiamo sul sì o no? Ma insomma, credo che... Credo non è un sì. No. Credo che ci siano già stati troppi illusionisti in politica. Ok, il PD, Bersani, oggi dice sostanzialmente forse è meglio ripensare più che un governo tecnico elezioni nel 2012. Secondo lei il PD fa bene a chiedere un governo tecnico? Lei è di questa idea? Ribadisce che l'alleanza si può aprire anche più al centro? Ma io penso che noi abbiamo un problema gigantesco, che è ricostruire l'idea della democrazia. La tecnica ha preso il potere devastando l'economia e portando il mondo sull'orlo di una catastrofe. L'idea che in Europa comandi Trichet, comandi la Banca Centrale Europea, e che non paghino mai dazio e che non debbano mai sottoporsi, per esempio, al vaglio del voto popolare, è un'idea demenziale. Io voglio che la politica torni in campo e dica, per esempio, che la crisi si affronta con la giustizia sociale. La crisi si affronta tassando le rendite, la speculazione, mettendo la tassa patrimoniale e tagliando le spese militari. Vorrei che fosse un compito della politica. I tecnici, ovviamente, diciamo così, mai prenderebbero questo sentiero. Quindi no governo tecnico, ma nel 2012 secondo lei si può andare ragionevolmente a elezioni con un leader come Bersani, o ha ragione Renzi che bisogna cambiare tutto, rinnovare l'intera classe dirigente anche sul PD? Io vedo che i sondaggi... Perché insomma la vicenda Penati ha pesato. Io vedo che i sondaggi dicono che c'è quasi l'80% degli italiani che ha un giudizio negativo sulle forze di maggioranza di centrodestra, e una percentuale altrettanto elevata di italiani che danno un giudizio negativo sulle forze di opposizione. Forse la chiave del cambiamento e di un governo di alternativa non sta dentro l'attuale teatrino della politica. Per questo io penso che il leader, il candidato premier, debba deciderlo il popolo col processo democratico delle primarie. Quindi non Bersani da solo. Se il popolo deciderà Bersani, Bersani. Ma non mi sembra convintissimo lei su Bersani. Non mi sembra convintissimo io su Bersani. Io non lo voterò, però se il popolo lo vota. Allora, la prossima volta che ci vediamo, a parte che ho ottenuto un risultato, non ho mai avuto risposte così brevi dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, però questo è anche il potere della radio. La prossima volta che ci vediamo, invece, mi risponderà una domanda che oggi non potevamo affrontare. Perché quando si parla di lavoro e di diritti del lavoro, visto che lei ha fatto una grossa campagna su questo come SEL, si parla sempre di tutela dei diritti, come se andassero mantenuti, conservati, e non di diritti nuovi. C'è sempre un gioco sulla difesa, no, non abbiamo più tempo, però soltanto questo, avrei voluto parlarne, diciamo, dicendo molto male della Fiat che oggi chiude a Grotta Minarda Irisbus, perché si tratta di una scelta incomprensibile e sbagliata. Va bene, prendiamo anche questa, la Fiat ha fatto una scelta incomprensibile e sbagliata, la prossima volta le chiederò perché si parla solo di tuteli sulla difensiva e mai di nuovi diritti sul mercato del lavoro, ma in un'altra occasione, non in un'altra vita, in un'altra puntata. Chiaramente, grazie al presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Tra l'altro, molti complimenti al suo vicepresidente ieri, l'assessore alle attività produttive, molto preparate, questo fa sempre piacere. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento. Noi ci risentiamo domani alle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.